Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 27 giugno 2015. La Germania, leader dell'idrogeno, l'auto pulita spinge il settore. La decisione era stata presa 3 anni fa con una lettera di intenti sottoscritta da governo e aziende private per espandere il numero delle stazioni di rifornimento di idrogeno sul territorio nazionale. 3 anni dopo, la rete di distribuzione tedesca ha superato i 50 impianti che garantiscono il pieno a circa 5.000 veicoli a impatto zero. Il governo ha investito 40 milioni, cifre anche più cospicue sono state impiegate da aziende del settore energetico e automotive. Le ricadute sono state positive anche in termini di ricerca e sviluppo. La Germania è leader a livello globale per la produzione dell'idrogeno, come pure per le tecnologie connesse. Fin qui la notizia del 27 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Anche se i combustibili fossili domineranno ancora il mercato nei prossimi anni, l'idrogeno è un atteso protagonista nel settore delle rinnovabili, anche grazie ai tanti progetti sulla sua produzione a costi minori. Fabio Recchini, docente di sistemi energetici all'Università La Sapienza di Roma. La scelta della Germania è una scelta logica, perché sull'idrogeno si è investito molto per una decina, 15 anni, dagli anni 90 all'inizio degli anni 2000, si sono raggiunti dei risultati molto interessanti e non soltanto per l'automobile ma anche per l'automobile, e quindi perderli inseguendo la moda del momento ogni decennio è una cosa assolutamente errata. La Germania investe sull'idrogeno per mantenere alta anche la sua supremazia tecnologica anche in questo ramo energetico, di questo vettore energetico. L'idrogeno ha dei grossi vantaggi per chi comunque si vuole dare delle alternative rispetto al petrolio. Si produce da più fonti e si può usare ad emissioni zero praticamente in tutti gli utilizzi che oggi noi conosciamo energetici. E abbiamo le tecnologie per fare tutte queste cose. Per l'idrogeno il essere protagonista nel campo delle rinnovabili significa abbattere i costi di produzione. Una dei modi per produrlo è sicuramente quello della gassificazione diretta di biomassa, quindi fonte rinnovabile ma processo di gassificazione che nulla ha a che fare con la rigassificazione dei rigassificatori del gas naturale di origine fossile, e dà un'alternativa con un processo simile ma più avanzato rispetto a quello che oggi si usa per produrre idrogeno da gas naturale fossile, dà un'alternativa seria per utilizzare le biomasse, quindi dal legno ai rifiuti organici a tutti i rifiuti di origine biologica, rifiuti o prodotti di origine biologica che possano ad altissimo rendimento essere convertiti in un vettore energetico che di nuovo ad altissimo rendimento ci permette di avere sia calore che elettricità e quindi anche direttamente energia meccanica. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Alessandra Tedesco e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.